su Radio 24. Radio 24 e Sergio Bonelli, editore, presentano Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Lassù qualcuno ci chiama. Da una storia di Tiziano Sclavi. Regia di Gaetano Cappa. Humbert Coe, grazie di essere venuto. Non sono venuto, sono stato rapito. Beh, forse sono stato un po' brusco, ma credo che tu sia l'unica persona al mondo in grado di aiutarci. Vieni, ti faccio vedere. Ah, Juliet. Buonasera, dottor Hoyle. Le spiace tornare a pulire più tardi? Fatta, machassio. Avanti, Hoyle. Non tenermi sulle spine. Mi hai svegliato alle 5 del mattino e mi hai costretto a venire di corsa. Il vostro radiotelescopio ha finalmente iniziato a funzionare? Pare di sì, Co. 3 notti fa il nostro software indagatore ha rilevato delle sequenze ripetute su quella che noi chiamiamo la frequenza magica. In poche parole, sembra che per la prima volta nella storia sia arrivato dallo spazio un messaggio inviato da una forma di vita intelligente. E che diceva? E ti telefono casa? Co, tu parli correntemente 26 lingue e hai perlomeno un'infarinatura di tutte le lingue del mondo. Non esageriamo. Il dialetto di Hyre-Ula nella Mongolia inferiore mi è ancora un po' oscuro. Se davvero qualcuno ci chiama da lassù, tu sei l'unico che forse può capire e rispondere. Fammi vedere. Langutefrud Ing Inguinf. È nel Galles. Juliet! Scusi, dottor Hoyle, ero qui fuori e non ho potuto fare a meno di sentire Langutefrud Ing Inguinf è nel Galles. Io ci abito. Non era la prima volta che andavo nel Galles, guidando il mio vecchio maggiolone e tenendomi accanto il pazzo, voglio dire, il mio amico assistente e rompiscatole personale Crucio. E come tutte le altre volte, l'itinerario non era proprio preciso. Beh, se non altro questo è il luogo ideale per ritrovare se stessi, perché prima ci si perde. Dai, controlla sulla cartina. Devo andare a destra o a sinistra? Dritto! Non si può andare dritto, non c'è la strada! È vero, tenevo la cartina al contrario. Al diavolo, io mi butto a sinistra. Ma questa mania di oggi di girare tutto in politica. Cambia il tempo. Non so se ci riesco, ma posso provarci. E che cosa vuoi al suo posto? Crucio, mi sto innervosendo. Guardai verso il cielo e rimasi a bocca aperta. Non per il temporale in arrivo, ma perché su, in uno squarcio tra le nuvole, c'era un UFO, un enorme disco d'argento che incombeva su di noi scintillando. Poi cominciò a piovere forte e l'UFO scomparve. Ma Crucio non si era accorto di niente, immerso com'era nella cartina. Ho trovato! Dovremmo essere in questo punto, qui dove ho messo il dito. Guarda se vedi un enorme dito sulla strada. Io credo di aver visto un UFO, ma tu non l'hai visto? No, guardavo la cartina. Probabilmente è un classico caso di allucinazione collettiva. Soltanto tua. È sparito. Non si vede più. Le nuvole l'hanno coperto, accidenti a loro. E comunque non ci siamo persi l'UFO. Ci siamo persi e basta. All'improvviso, come era cominciato, smise di piovere. E di fronte a noi un raggio di sole si posò su un cartello metallico che recitava il nome del villaggio gallese che stavamo cercando. Ascoltate bene, perché non lo ripeterò più. Langutefrud Ing Nguinf. Ah, guarda, quello deve essere il poliziotto del paese. La persona giusta per le informazioni. Boh, non capisco perché. Comunque non dargliene troppe. Buongiorno, agente. Forse può aiutarmi. Sto cercando la signora Jones. E perché diavolo cerca mia moglie? Sua moglie? No, non credo che sia sua moglie. Cosa? E secondo lei io abiterei da 18 anni con un'estranea? Oppure sta insinuando che viviamo nel peccato? Io non insinuo affatto, sono sicuro che... No, sì, è sicuro, ma certo. Voi inglesi pensate che noi siamo dei selvaggi, eh? Beh, allora perché non lasciate che il selvaggio gallese se ne stia per i fatti suoi? Ma no, è l'imperialismo britannico. Non vi basta aver conquistato l'India, volete anche l'Angunte Frundingingoinf. L'India? Non ce l'abbiamo più, l'India. Gandhi l'ha liberata. Capo, vedi di tagliar corto. Dobbiamo tornare sul pianeta Terra. Gandhi? Ma come si scrive? So il suo indirizzo? Potrebbe essere utile anche a noi. Terra di giovinezza e terra di vita, terra senza alcun dolore. È lontanissima nell'occidente d'oro, sulla riva dell'azzurro mare. Una mezz'ora dopo ci fermammo in una locanda gestita da un certo Jones e sentivamo venire da fuori le voci di alcuni bambini che scandivano una filastrocca inquietante. Una bella terra dove ci sono valli verdeggianti, scintillanti ruscelli ed erbose pianure. Una terra di pace, serena, senza morte o pena, dove sempre è estate. Ecco qua le specialità della casa: Leverbread, Welsh Rabbit e salsicce di Glamorgan. Ah, scusi, che cosa recitano quei bambini là fuori? Un'antica poesia celtica. Era la preferita della piccola Ellie Jones. Ah, a proposito, io devo appunto parlare con la signora Jones. Signorina, prego. E non capisco di cosa debba parlare con la mia fidanzata. Oh, scusi. Certo, questa Jones deve avere una vita molto attiva sentimentalmente. Cosa vorrebbe insinuare? Fogmat on! Neamishem! Balad kraiken! Calma, Jones. Sono sicuro che questi signori non volevano insultare nessuno. In compenso, io sono sicuro che lui voleva insultare noi. Non c'è riuscito solo perché gli si è attorcigliata la lingua. Posso sedermi? Mi chiamo Humbert Coe e sono straniero, come voi. Prego, io sono Dylan Dog, di Londra. E lui è il mio amico Grucio. Di Londra? Dovresti specificare, capo. Siamo di Craven Road. Con tutti questi movimenti secessionisti, tra un po' la nostra strada sarà uno stato autonomo. E per andare a Piccadilly ci vorrà il passaporto. Già, purtroppo è una piaga mondiale. I popoli, invece di unirsi, sembra tendano a dividersi. Una nuova Babele. E pensare che gli inglesi si ritengono uniti e superiori a tutti gli altri popoli, da cui il famoso titolo di giornale "Nebbia fitta sulla manica, il continente è isolato". Comunque le cose non sono poi così drammatiche da queste parti. È tutta brava gente. Dovete solo tenere presente che i gallesi non hanno una grande fantasia per i cognomi. Ce ne sono pochissimi: Williams, Evans e soprattutto Jones. Qui a Langunte Frude in particolare si chiamano quasi tutti Jones. Ed ecco spiegato l'equivoco della vostra signora o signorina Jones. Eilid! Dove sei? Eilid! Eilid! Lei perché è qui, Humbert? Oh, niente. Cercavo un posto tranquillo per scrivere il mio nuovo libro. E di cosa parla? Bah, roba noiosissima, temo. Non si tratta di un romanzo? È un saggio, uno studio sulla lingua madre, un tomo ponderoso che leggeranno solo due o tre miei colleghi semiologi e linguisti. Penso di intitolarlo "Così parlò Adamo". Un'indagine sulla lingua ancestrale, quella parlata dall'Homo sapiens più o meno 100.000 anni fa. Cioè, prima di Babele. Già, potrebbe essere un altro buon titolo. Tra l'altro, il gaelico è antichissimo e magico. C'è perfino qualche pazzoide che sostiene derivi da un idioma alieno portato sulla Terra da divinità extraterrestri. Ah, oh, ma venga dentro. La mia colf, la signora Jones, ci preparerà un buon tè. La signora Jones? Mm-hmm. Buonasera, Juliet. C'è un ospite con me, il signor Dylan Dog. Mi chiamo Juliet Jones. Sono io che le ho chiesto di venire, Dylan Dog. Piacere. Beh, un discreto colpo di scena, no? Non lo sapevo neanche io. Il tè può aspettare. Vi lascio soli a parlare con calma. Beh, proprio soli no, in mezzo a tutti questi miei libri. Lei è gallese? Non c'è abbastanza sole da queste parti per essere così abbronzata. Vengo dal Senegal. Avevo sposato un uomo di Languntefrut. È morto. Mi ha lasciato una figlia, Eilid. Era tutta la mia vita, tutto ciò che amavo. Ma ho dovuto separarmene. Non trovavo lavoro qui. Sono andata a High Hill a fare le pulizie all'osservatorio che c'è lì, un planetario, roba del genere. Tornavo a casa appena potevo, una volta alla settimana, spesso solo per poche ore. Una famiglia di Languntefrut, i Jones, si prendeva cura di Eilid. Perché ha detto che Eilid era tutto ciò che amava? Perché è scomparsa 6 mesi fa. Ma ha ragione, ho sbagliato a dire era. Eilid è tutta la mia vita. Sono sicura che tornerà. Sono sicura che è viva. Mi racconti quello che è successo? È stato durante una scampagnata della scuola sulla collina di Ananvior. Mi hanno detto che era una giornata bellissima. La maestra ha accompagnato i bambini fino in cima ad Ananvior e lì hanno fatto un picnic. Bambini, tutti qui, forza, forza. Poi hanno giocato a nascondino. Aon, Ta, Tri, Saitir. L'ultimo a vederla è stato suo amichetto del cuore, Eogain. Eilid, non sentivi che ti chiamavo? Che cosa c'è? Che cosa stai guardando? La maestra mi ha detto che sembrava affascinata da qualcosa. Ma non c'era niente ad Ananvior. Poi è corsa via ed è sparita in una specie di nuvola di luce. Eilid, aspetta! Ma dove vai? Eilid! Eilid! Eilid! Eilid! Eilid! Eilid, dove sei? Non c'era più. Praticamente tutti gli abitanti del villaggio setacciarono la zona con le fiaccole. Tutta la notte e il giorno dopo e molti giorni e molte notti ancora. Arrivarono dei poliziotti da High Hill, ma non si diedero un granché da fare e finirono per archiviare il caso. Bambina dispersa e stop. Mi dispiace molto per Eilid, ma... Aspetti! In questi 6 mesi ho risparmiato. Il professor Ko mi ha voluto con sé ed è anche riuscito a farmi dare un aumento da quegli spilorci del planetario. Ecco, prenda. Sono 620 sterline e 6 pence. È solo un anticipo. Troverò un secondo lavoro. 100 altri lavori per pagarla. No, no, signora Jones. Non era per questo che esitavo. Lei sa chi sono. Sa che mi occupo di casi, diciamo, strani. Il suo credo sia... Strano, perché una bambina non può svanire nel nulla su una collina che tutti qui conoscono come le loro tasche. Ma la vera ragione per cui ho chiamato proprio lei è un'altra. Io so che Eilid è ancora là. Quando io e Grucio ci mettemmo a dormire nella stanza che un certo Jones ci aveva affittato nella sua locanda, non riuscivo ancora a crederci. Straordinario. Straordinario cosa? Che un gallese abbia dato una camera a 2 inglesi? È merito mio. Gli ho detto che Dio ci ha messo solo 6 giorni a creare il mondo e non ho mai capito questa gran fretta. Poteva pensarci con più calma e farlo tutto come il Galles. No, io pensavo all'incontro di questa sera. Una donna affascinante. E ti pareva? Scommetto che si chiama Jones ed è così bella che già sei tormentato dall'idea del matrimonio. Quello di lei con il signor Jones, intendo. Sì, si chiama Jones. È vedova. Ha passato la quarantina. È grassa. Assomiglia un tantino a Louis Armstrong. È un'immigrata del Senegal. Fa la golf. Le pulizie, insomma. Beh, questa sì che è una sorpresa. Dylan Dog che si innamora di una donna normale. Innamorato. Ma... E poi ho come l'impressione di non piacerle troppo. Comunque, non riesco a dormire. Vado a fare una passeggiata lassù sulla collina. Beh, sono un po' deluso. Speravo che qui il mio quinto senso e mezzo pizzicasse almeno un po'. E invece non c'è proprio niente di strano. Neanche un minimo di atmosfera magica, che so, celtica, druidica... Alzai gli occhi e nel cielo vidi un disco volante. Era enorme, più grande della luna. Poi guardai meglio e mi accorsi che era un dirigibile. Un dirigibile pubblicitario. Ma nello stesso istante cominciai a sentire quelle voci, le più strane, le più incomprensibili che avessi mai sentito. Provenivano dalla collina. Chi c'è? Chi parla? Chi c'è lì? Nessuno. Ma queste voci sembrano venire dalle pietre. È una specie di canto. Mille lingue diverse e ignote che si riuniscono e tornano a formare una lingua sola. Il giorno dopo, quando andai da Coe, lui si dimostrò assai interessato al mio racconto, anche se io non ero più sicuro di aver sentito davvero quelle voci. Ero molto emozionato per l'UFO, lo confesso. Forse è stato solo il vento. O forse le pietre sono dei computer naturali, o meglio, degli hard disk. Immagazzinano dati, li ricordano. Il Galles è fra le terre più antiche del mondo. Ci sono alcune rocce che si formarono più di 3 miliardi di anni fa e sono sempre qui, ancora le stesse. Le pietre sono la memoria del mondo. Loro sì che hanno sentito la prima lingua parlata dall'uomo. Forse era veramente una specie di musica, di canto. E riascoltare quel canto è sempre stato il mio sogno. Juliet ha nostalgia del suo paese. Il mio paese è il mondo. È un paese folle dove, come mi ha detto il professor Coe, si parlano più di 5.000 lingue differenti. E spesso anche le persone che parlano la stessa lingua non si capiscono fra loro, perché non ascoltano gli altri, ma la loro paura per chi è diverso. Solo che, grazie al cielo, ognuno di noi è diverso dagli altri. È proprio questo che dovrebbe renderci tutti uguali. E l'unica lingua dovrebbe essere quella dell'amore. Già, forse è proprio quella che cerca il professor Coe. È probabile. Se esiste un modo per comunicare con gli alieni, può essere solo quello. Gli alieni? Signora Jones! Signora Jones! Che c'è, signora Jones? Mio figlio Eogain. Non l'ha visto? No. È uscito stamattina e non è più tornato. Stiamo andando tutti insieme a cercarlo. Ci sono anche i suoi compagni di scuola. I suoi compagni di scuola erano sicuri che fosse andato sulla collina. Eogain sale lassù appena può da quando è sparita Eilid. Era tanto innamorato di lei. Va là e la chiama, la cerca ancora. Eogain! Eogain! Eogain! Organizzarono una battuta, presero delle torce. Anch'io mi unii alle ricerche. Quando il corteo giunse sulla collina, le luci delle fiaccole cominciavano ad assomigliare alle stelle. Non c'era più differenza fra la terra e il cielo. Eogain! Eogain, dove sei? Coraggio, signora Jones. Tra poco è l'alba. Con la luce le ricerche saranno più facili. Lo ritroveremo. No, è come per Eilid. Non lo troveremo più, il mio Eogain. È colpa di Eilid, di quella piccola bastarda. È tutta colpa tua, maledetta negra. Dio mio, Juliet, che cose orribili ho detto. Perdonami, non volevo. Siamo tutte e due dello stesso paese e condividiamo lo stesso dolore. Era quasi l'alba quando, forse per colpa della stanchezza, caddi dentro una fenditura nella roccia e rotolai verso il fondo. Mi fermai sopra un cespuglio spinoso. Intorno a me cominciai a sentire quella musica. Era il vento che passava tra le rocce e faceva suonare i fili d'erba. Solo che il vento veniva da dentro la roccia. Un buco, troppo piccolo per un uomo, ma non per un bambino. Chiamai aiuto, feci portare pale e picconi e cominciammo a scavare. Può bastare. Vado io. E al diavolo la mia claustrofobia. Strisciai giù attraverso il cunicolo, nel buio quasi totale. Caddi, rotolai, sino all'orlo di un pozzo naturale. Pochi metri sotto di me, vidi il corpo di Eogain. L'ho trovato! È vivo! Portate delle corde, venite! Eogain si è salvato per miracolo. Dottore, lei crede che anche la piccola Eilid Jones... Sì, anche Eilid è caduta là dentro. E anche lei è viva. 7 uomini scesero nel crepaccio, ma non avevano corde abbastanza lunghe per arrivare fino alla fine del pozzo. Riportarono indietro soltanto un brandello del vestitino che Eilid indossava il giorno della sua scomparsa. È là sotto! È viva! Dovete scendere ancora, trovarla! Juliet, sono passati 6 mesi. No! Mi dispiace, Juliet. No, lo sapevo. Dentro di me l'ho sempre saputo. Cercavo solo di illudermi. È quello che facciamo sempre tutti, no? Vivere di illusioni. No, non credo. O almeno non del tutto. Credo che l'amore non sia mai un'illusione. La sera dopo tornai sulla collina di Ananfjor e, come mi aspettavo, Juliet era lì. Mi vide arrivare. Non ci dicemmo niente. Ci stringemmo forte le mani, guardandoci negli occhi. E fu allora che la baciai. Juliet, io... Scusi, forse non dovevo... No, forse no. Tra le rocce ci sembrò di vedere un'ombra luminosa che cominciava a prendere forma umana. La vaga forma di una bambina. Eilid. Poi le voci e la musica si spensero e quel fantasma vaghissimo che sembrava accennare un sorriso si dissolse in una grande luce. Perché poi tutta questa fretta di partire? Non ho avuto neanche il tempo di salutare Jones e Jones e Jones, Jones... E io di salutare Coe. Ma come dice Charlie Brown, nessun problema è così grande da non riuscire a fuggirne. e io fuggo. Mi sembra giusto. Penso spesso che tu abbia l'età mentale di un bambino di 6 anni. Allora siamo coetanei. Già, beh, in fondo Mozart a 6 anni componeva sinfonie, ma forse suonava il clarinetto meglio di te. Comunque stai attento alla strada. Gli UFO hanno la precedenza. Allora, Co, hai decifrato il messaggio? In un certo senso, sì. Il messaggio alieno dice: Tirnanog Agustirnambeo, Tirganbron Arbit, e così via. Ma che significa? È una vecchia poesia in gaelico, una poesia che i bambini qui del villaggio sanno tutti a memoria. Forse è uno scherzo di un qualche radioastronomo burlone, oltre che gallese, o forse no. Ma credo proprio che mi stabilirò qui e continuerò a studiare il messaggio dalle stelle. Ma è la prova che è di origine terrestre. L'hai detto tu che è uno scherzo. Sì, può darsi. In ogni caso, la poesia costituiva solo una piccola parte dei segnali. Che vuoi dire? Penso a Elid Jones, una bambina del paese. È morta il giorno stesso in cui il radiotelescopio di High Hill ha cominciato a ricevere i segnali. Ma non voglio dire altro, Hoyle. Noi semiologi siamo tutti un po' matti, lo sai. Figurati che mi sono messo in testa un'assurdità. Cioè che se io riuscissi a tradurre tutto il messaggio, forse potrei capire quello che ci sta dicendo Eilid. Forse addirittura ricostruire la sua anima. Certo. Non riportarla in vita, ma almeno sentire che ci chiama da lassù e forse risponderle. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Lassù qualcuno ci chiama. Adattamento radiofonico di Graziano Frediani e Gaetano Cappa. Con Davide Capostagno, Alberto Fasoli, Jacopo Fracasso, Silvia Giulia Mendola, Alberto Onofrietti, Francesca Perilli, Valentina Scattolin, Gualtiero Scola, Gabriele Scola, Massimiliano Speziani. Tecnico del suono, Paolo Corleoni. Coordinamento di produzione, Guido Scotti. Suono, musica e regia, Gaetano Cappa.